Tramonto sul mar. Che festa, tutta luce, che festa de colori, col sol sull'onda mori. La granda bala rossa a pian pianin sparissi, e il ciel la colorissi, co tinte gialle, azzurre, violette, vaporose, un gran bocchet de rose. E il mar a quella sena se metti tutto in festa, se calma la tempesta. Fin i cocai, con giri più larghi svolazzando, va il quadro incornisando. Le spalancate vele, in cima alle brassere, se un bosco de bandiere. Un son come de organo, un canto de sirene, vien su colonde, piene de sogni e dei misteri. Po cala già la notte, co veli scuri e neri. Che